Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. O cristiano o gay. Non vi nascondo che ho molti dubbi nel presentarvi questa storia perché tocca questioni delicatissime. I fatti sono raccontati in un diario non brevissimo di cui una persona che conosco mi ha fatto avere delle fotocopie. Ho chiesto il numero di telefono dell'autore di quel diario e me lo hanno dato. L'ho chiamato, l'autore mi conosceva solo per interposta persona perché aveva sentito parlare di me e di Progetto Gay. Mi ha detto che potevo usare quel materiale, ma mi ha chiesto di farlo comunque con molta prudenza, ed è quello che farò. Il diario, oltre a contenere elementi molto specifici e quindi in grado di compromettere la privacy dei protagonisti, in alcuni punti presenta dei toni drammatici veri. Per questo ho riscritto la storia in prima persona, riassumendola e al solito cercando di rispettarne lo spirito, ovviamente evitando ogni elemento che potesse mettere a rischio la privacy. Sottolineo che quanto ascolterete di seguito non rappresenta il mio personale punto di vista. Ma veniamo alla storia. La mia storia è una storia molto particolare. È la storia di un amore gay intensissimo e brevissimo, ma sostanzialmente impossibile. Impossibile perché è negato, soffocato sul nascere. Il tutto si è svolto nell'arco di 25 giorni. Li ho contati uno per uno. Io 23 anni e lui, Marco, 19. Ci siamo conosciuti all'università, lui era iscritto al primo anno, io stavo per finire lettere. Era pomeriggio tardi, dopo le lezioni mi ha chiesto delle cose sull'istituto di glottologia, io ho cercato di spiegargli tutto ed è cominciata proprio così. Poi abbiamo continuato a parlare, si stava bene, lui era esitante, ma era anche felice di stare con me. Non lo conoscevo affatto, era un bel ragazzo, ma mi piaceva anche sotto altri punti di vista perché era schietto, autentico, non recitava. Quella sera non me ne sarei più andato. Di dirgli che io ero gay non mi è passato nemmeno per l'anticamera del cervello. Ci stavo bene e basta, non avevo nessun secondo fine. In effetti mi capita spesso di parlare con qualche ragazzo, ma così, solo perché si sta lì e si devono passare 5 minuti. Mi sentivo più grande di Marco, più maturo, in qualche modo protettivo. Il giorno successivo mi ha cercato nella mia aula e l'ho accompagnato a casa, un lunghissimo e gradevolissimo viaggio. Nei giorni seguenti ho notato che tra noi si stava creando un rapporto forte e non sapevo come comportarmi. Con me Marco parlava di tutto, mai di ragazze, mai di sesso. Se volevo essere onesto, a costo di perderlo, dovevo dirgli come stavano esattamente le cose e l'ho fatto. Marco era turbato in modo profondo. Perché voleva essermi amico, ma non in quel modo. Questo me l'ha detto subito. Ma non sapeva nemmeno se ci sarebbe riuscito. All'inizio ho pensato semplicemente che sentirsi oggetto d'amore di un gay non fosse per lui una cosa accettabile, ma il problema non era quello. L'ho capito un minuto dopo perché me lo ha detto lui stesso in uno sforzo di sincerità che gli deve essere costato sangue. Mi ha detto: «Io non posso condividere il tuo sentimento perché sono cristiano». Ma da questa frase io ancora non riuscivo a capire bene quello che mi stava dicendo. Gli ho detto semplicemente: «Guarda, non ho capito». E lui mi ha risposto vincendo un imbarazzo fortissimo e senza guardarmi in faccia: «Io sono gay, ma sono cristiano e voglio vivere castamente. E stando vicino a te sarebbe molto più difficile». Io sono rimasto sconvolto da questa dichiarazione esplicita. Ma lui è fatto così, non è proprio capace di imbrogliare nessuno, mai. Poi mi ha detto: «È una battaglia con me stesso, ma io la devo vincere. A te può sembrare assurdo, ma per me è essenziale». Non sapevo come comportarmi, se fare tutti i miei soliti discorsi sulla religione oppure evitare, e non ho detto nulla. L'ha presa come una forma di rispetto e non è scappato via. Quando ci vedevamo era contento, ma sempre con senso di colpa di fondo. Io lo facevo parlare. Speravo tantissimo che capisse le cose anche dal mio punto di vista. Poi abbiamo parlato anche di religione. Per lui era una cosa essenziale. Per fare le cose onestamente ci metteva l'anima. Non era bigotto, non era un invasato, no. Solo l'aveva presa sul serio al 100%. Io non frequento le chiese da quando mi sono reso conto di essere gay, in pratica da quando ero ancora un ragazzino, ma qualche pagina di Vangelo la leggo volentieri. Le chiusure che il Papa ha sui gay mi sembravano assolutamente immorali, ma non penso affatto che la religione sia una cosa stupida. Marco si è reso conto che io avevo un certo rispetto di queste cose e ne è stato contento. Tuttavia con me non ha mai parlato del problema di gay e religione. Il 24° giorno, era un sabato, mi ha chiesto una cosa stranissima, mi ha chiesto di accompagnarlo in chiesa l'indomani. Io gli ho detto che ci sarei venuto certamente. La domenica era una domenica particolare e c'era un vescovo che doveva cresimare alcuni ragazzi. Io e Marco siamo entrati. Io mi sarei fermato in fondo, ma Marco ha voluto che andassi più avanti con lui e ci siamo messi a un banco circa a metà della chiesa. È entrato il vescovo per la messa. Uno magro, alto, anziano, i ragazzi cantavano, la chiesa era piena di gente, c'era una bella atmosfera. Poi il vescovo ha fatto un suo discorso e ha detto delle cose molto belle che mi hanno commosso, sul fatto che siamo tutti fratelli e che amare il nostro prossimo è comunque difficile. In pratica non c'è stata una sola parola della predica del vescovo che io non avrei potuto dire identica. Mi sembravano delle cose bellissime, condivisibili al 100%. Poi ci siamo scambiati la pace, ma la cosa non aveva il sapore rituale che ha di solito, era una cosa seria. Si è alzato ed è andato a confessarsi. Al ritorno si è inginocchiato proprio vicino a me, poi è andato a fare la comunione. Era felice come non l'avevo visto mai. Quando siamo usciti dalla chiesa, abbiamo parlato per un quarto d'ora e mi ha detto che avrebbe voluto farsi prete, ma che adesso in seminario avrebbe avuto dei problemi. Che prima di decidersi doveva avere la certezza che avrebbe potuto portare avanti la cosa fino alla fine senza esitazioni. Mi ha spiegato che prima avrebbe dovuto risolvere il problema dell'omosessualità e che, se gli volevo bene veramente, lo dovevo aiutare, non cercandolo più. La parola risolvere mi ha lasciato di stucco. Quello che ho provato in quei momenti credo che nessuno se lo possa immaginare. Ero sconvolto, non sapevo che dire. Lui mi chiedeva di dirgli addio per sempre e io ho rispettato la sua decisione. Gli ho detto che gli avrei voluto bene sempre e comunque e mi ha risposto che questo lo sapeva e che anche lui non mi avrebbe dimenticato, ma che la sua strada era un'altra. Ormai è passata una settimana e non l'ho più sentito. Adesso mi sento uno schifo dentro. Mi sento solo, mi sento disperatamente solo e penso che sono stato un vile, che non ho fatto quello che avrei dovuto. Penso che ho rispettato solamente le sue parole ma non la sua anima, che l'ho fatto andare per quella che lui mi ha detto essere la sua strada ma che forse non è veramente la sua strada, perché lui quella scelta l'ha fatta in modo drammatico, perché era spaccato in due dentro, perché per salvarsi l'anima doveva distruggere se stesso. Quello che mi fa stare male è che se dovesse pentirsi della scelta che ha fatto non avrebbe nessuno disposto ad ascoltarlo. Io l'ho assurdamente assecondato nello scegliere la strada che lo ha portato definitivamente via da me. Ma se volesse tornare indietro, nessuno lo aiuterebbe e io penso che prima o poi possa andare in crisi. Il senso della disperazione mi viene non solo per me ma soprattutto per lui e mi sento in colpa e penso che il mio comportamento sia stato ipocrita perché rispettare una persona significa dirle sempre tutto quello che veramente si pensa. E io con lui non l'ho fatto. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.